Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, buongiorno Debora. Iniziare la settimana con me è tutta un'altra cosa. Tra l'altro abbiamo una settimana molto vivace io e te, perché ci sposteremo come le anguille qua in tutta Italia. E quindi seguiteci, mi raccomando, non perdeteci di vista. Sì, domani siamo a Cibus. Sì, sei a Cibus. Sono. E io poi prenderò il testimone mercoledì. Dove però un pezzetto ci sarai. Sì. O no, ecco. Vabbè. E poi vi racconteremo altre cose. Allora, come sempre, i nostri ascoltatori vogliamo ringraziarli perché hanno accettato questo nostro invito a mandarci la frase con cui iniziare bene la giornata. Sono molto generosi e io oggi ne ho scelto uno che mi ha fatto sorridere, perché ridere fa bene al cuore. Mi piacciono, ci scrive, tutti i giorni della settimana tranne quelli che finiscono con Edi. Mi raccomando, voi continuate a scriverci, ogni giorno sarete voi ad aprire la puntata. Invece all'indomani della festa della mamma, io un pensiero e un saluto lo voglio fare a tutte le mamme. Ovviamente ho trovato una notizia con una bella cifra dentro e quindi mi ha attirato questa. Ti do appunto questa indicazione, 51.400 euro, sai a che cosa corrispondono? No, però la cifra è interessante. Porca miseria. Mi piacerebbe molto. Sembrerebbe lo stipendio annuale che si meriterebbe ogni mamma italiana se fosse retribuito tutto il tempo che dedica la famiglia alla cura della casa. Il calcolo è stato fatto a partire da 500 interviste realizzate con altrettante mamme italiane dalla società V-King, che anima il blog Coffee Break. E quindi sappiamo che le mamme non lo fanno per una retribuzione, ma è un altro modo per avere la misura di tutte le energie che dedicano al loro impegno. E quindi, con i saluti alle mamme, partiamo con la nostra rassegna stampa. Ti ricordi Debora, donna baffuta? Sempre piaciuta, il famoso carabiniere. Brava, anche un po' il barbuta. Il babbo del carabiniere. Oh, e invece, a proposito di barba, è l'uomo con la barba che piace sempre di più. Secondo un recente sondaggio, 6 italiani su 10 decidono che con la barba si sta meglio, che sia lunga, corta, un po' solo accennata a pizzetto. Sembra essere un elemento di fascino capace di rendere l'uomo sempre più attraente. E anche molte donne trovano la barba irresistibile. In più, secondo alcune ricerche, un po' di barba trasmette anche un senso di maggiore sicurezza e migliora anche la valutazione di un maschio, pensa, come potenziale genitore. Ma se dunque per il momento il rasoio è caduto un attimo nel dimenticatoio, o almeno messo da parte, bene non dimenticare di prendersi cura della propria barba. Quindi, uomini barbuti all'ascolto, per una barba da perfetto gentiluomo sappiate che dovete tenerla pulita con un lavaggio quotidiano con acqua e sapone. Poi, tra i prodotti che non devono mai mancare, c'è l'olio per barba, lo conoscete? No, noi no, la barba non l'abbiamo, facciamo finta di non averla, ma mi chiedo Carmelo. Bene, Carmelo, rigenera e idrata. Poi dovresti puntare anche, lui non sa nulla, ma ha una splendida barba. Con tutte le trasmissioni che facciamo non sa nulla. Devi andare sull'olio di argan, che è ricco di vitamina E e di acidi grassi, emolliente, nutritivo e protettivo, oppure su quello di girasole, che vanta proprietà lenitive. Alzati e cammina è una semplice raccomandazione che può però salvarci la schiena. Secondo una recente revisione da parte dell'Università di Sydney, gli esercizi riducono il rischio di mal di schiena di circa il 35%. Per allontanare questa patologia, che secondo gli ultimi dati, pensate, colpisce oltre 12 milioni di italiani, è vietato poltrire sul divano, quindi darsi una mossa. Però bisogna darsi quella giusta. L'ideale è uno sport in acqua. Perché? Perché il movimento in assenza di peso aiuta i muscoli a decontrarsi e a rilassarsi. Quindi sono perfetti l'acqua gym, quello che fai anche tu, Debora. Sì, e diciamo sera. Dintorni. E infine, buone nuove dalla ricerca. Arriva dalla Sapienza di Roma una novità importante per la malattia di Parkinson. In Italia sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto la diagnosi, per lo più maschi di età compresa tra i 59 e i 62 anni d'età. Ma l'età di esordio si sta abbassando sensibilmente. I ricercatori stanno facendo luce sulle cause. Passi avanti sono stati fatti per individuare precocemente la malattia e proprio su questa strada si sono mossi i ricercatori italiani, che hanno individuato nella saliva un marker per la malattia di Parkinson, un procedimento quindi più semplice, sicuramente meno invasiva rispetto all'analisi del liquor tramite puntura lombare. Per saperne di più trovate l'approfondimento sul nostro sito. Andiamo adesso alle notiziole di denari. Per quello che riguarda la borsa, riparte male la settimana per Piazza Affari, che sta perdendo lo 0,20%, anzi anche un pochino in miglioramento rispetto ad un'apertura che aveva visto un calo un po' più profondo. Oggi c'è un importante Eurogruppo, si ritorna a parlare di Grecia, si ridiscuterà di tutte le strategie messe in atto per ridurre i debiti di questo paese, ma insomma strategie che ancora non soddisfano gli organismi di Bruxelles. Il quadro è negativo a Piazza Affari, soprattutto per le banche. Tanto per cambiare, dobbiamo continuare a parlare sempre degli stessi argomenti. Oggi i titoli più penalizzati, ancora una volta Monte dei Paschi che perde quasi 3 punti e il Banco Popolare il 2,37%. Sul FTSE All Share l'indice è un po' più piccolino, c'è lo stacco di dividendo per 17 società, ne segnaliamo qualcuna: Cairo Communication e Astaldi, Ascopiave e Italmobiliare. Qualche altra notizia di servizio, allora Canon e Rai in bolletta. Chi non ha la TV, vi do questo countdown, ricordatevi di inviare entro il 16 maggio all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva per evitare l'addebito appunto del canone Rai nella bolletta dell'energia elettrica. L'addebito, come ricorderete, partirà dal prossimo luglio. E a proposito di bollette, da gennaio dell'anno prossimo diventerà obbligatoria la conciliazione in caso di controversie nelle utenze di energia elettrica e gas. Sono tante, Nicoletta, quante volte ne parliamo, i consumi presunti, i maxi conguagli, l'altra battaglia che non si riesce proprio a vincere. Allora, dopo il reclamo all'operatore, come funzionerà il tentativo di conciliazione presso il servizio dell'autorità per le controversie nei confronti delle imprese, che saranno obbligate a prendere parte appunto a questo tentativo di conciliazione? Questo servizio dell'autorità diventa il principale luogo di risoluzione delle problematiche con i clienti. Tutte queste sono novità contenute nel testo integrato conciliazione che è stato approvato proprio qualche giorno fa dall'autorità per l'energia. Vi ricorderete qualche puntata fa abbiamo raccontato di quanti italiani sono in arretrato con il pagamento di bollette, non solo, sempre di questo argomento stamattina stiamo parlando. C'è un bilancio ulteriormente aggiornato di questo problema italiano, lo pubblica oggi il Sole 24 Ore. Nel 2015 si arriva a quasi 60 miliardi di euro di rate bollette non pagate per gli italiani, un fenomeno che solo negli ultimi 4 anni ha registrato una crescita del 37%. Di questi numeri, ma anche di soluzioni per fronteggiare questa crisi di famiglie e imprese che non riescono a rispettare questi impegni di pagamento, ma anche dell'attività del settore del recupero crediti, si parlerà nel corso della giornata di Unirec, che è l'unione delle imprese che fanno appunto recupero crediti. La giornata si terrà il 12 maggio a Roma e verrà presentato anche il rapporto annuale dell'attività di questa organizzazione, verrà presentato anche il libro Io non voglio fallire dell'imprenditrice Serenella Antoniazzi. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Allora Nicoletta, ammettendo di diventare una pendolare, no? Sì. Tu, che ne so, devi organizzare il tuo mese di trasferte continue e mettiamo da qui a Bologna, che cosa va fai? Bene. Possibilmente per risparmiare faresti un abbonamentino. Ecco, tu fai questo abbonamento e sai di avere, come dire, il diritto di organizzarti come meglio credi le tue prenotazioni. Lo farei anche per quello. E invece che cosa è successo praticamente? Questa è una segnalazione che ci è arrivata da un ascoltatore, ma poi naturalmente partendo da questo caso abbiamo scoperto invece che sul territorio ce ne sono tanti. A quanto pare Italo non si sta comportando tanto correttamente nei confronti dei propri abbonati, perché in realtà fa sottoscrivere l'abbonamento, poi quando si tratta di scegliere il treno e fare la prenotazione praticamente non consente di farlo e oscura praticamente la possibilità di prenotare il viaggio, per cui ti dice o prendi il treno delle 3 per tornare da Bologna a quello delle 7 e tutti gli altri è come se non ci fossero. E quindi questa persona che ci ha segnalato questa cosa ci ha raccontato? Pensavo che questi treni fossero stati cancellati, in realtà è proprio che all'abbonato non viene dato la possibilità di prenotare appunto il viaggio, il tragitto. Detto questo, lui si è prima rivolto all'ufficio reclami della stazione di Bologna, che gli ha detto: segnali alla società questo che sta accadendo, perché lei è l'ennesima vittima di questa scelta di Italo, sì, di non accontentare più i suoi abbonati. Poi anche sul treno si è lamentato con un controllore che gli ha detto la stessa cosa. Insomma, la vicenda è molto complessa. E poi ha scritto a noi. Che abbiamo organizzato la puntata. E allora, sicuramente troverò. Allora, io dico subito che naturalmente i signori di Italo sono stati interpellati da Cuore Denari, hanno ritenuto opportuno non intervenire appunto in trasmissione, ci hanno mandato per iscritto la loro presa di posizione, che fra un attimo vi leggerò. Ma noi abbiamo dovuto anche chiamare un ospite che ci aiutasse un po' a capire che sta succedendo e perché gli abbonati... Se lo senti già sotto sotto? Si sta borbottando. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, buongiorno. No, perché sei già innervosito, io lo so. Truzzi? No, sta parlando, ecco. sta parlando con un altro. Non mi dica. Con un'altra, e allora qua parte la scenata. Buongiorno. Eccomi, non vi volevo tradire. Ah. Ero solo. Stavo divagando su queste. Divagando mica tanto su queste novità importanti. Per le utenze elettriche, ma mi sa che non parliamo di questo. No, ho già anticipato ai nostri ascoltatori, Truzzi, il tema che vogliamo affrontare oggi è questo trattamento discriminatorio che viene rivolto agli abbonati di Italotreno, di NTV. Io poi magari ci racconterà anche se per esempio Trenitalia fa la stessa cosa, se succede anche a Trenitalia, comunque in tante tratte di tutta Italia questi episodi a quanto pare sono molto ricorrenti. Allora, intanto dobbiamo andare al traffico. Segnalo anche agli ascoltatori che se sono stati protagonisti di una disavventura di questo tipo possono chiamarci all'800 24 00 24, e intanto andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi saliamo in treno se ci lasciano salire. Cuore e denari. C'è sempre un treno che va e va. Furio Truzzi, allora, eccolo qua, il nostro padalino dei pendolari e non solo. Assutenti è un'associazione dei consumatori particolarmente specializzata nei disagi degli italiani che subiscono appunto nel mondo dei trasporti e non solo. Allora, che cosa ne pensa di questa vicenda che ho appena raccontato? Le chiedo subito un primo giudizio per poi andare a capire anche che tipo di come mai queste compagnie scelgono appunto di trattare in questa maniera gli abbonati, però naturalmente prendendo subito i soldi dell'abbonamento non appena le persone lo sottoscrivano, ma non certo dando tutte le indicazioni su poi questo abbonamento si può come si può fruire appunto dell'abbonamento. Truzzi. Ma è francamente una vicenda surreale, assolutamente fastidiosa e ingiustificata per gli abbonati che hanno regolarmente stipulato un patto con questa società e che si trovano le carte cambiate come se fossero nella bisca di New Orleans. Ecco, quindi il nostro giudizio è severissimo, purtroppo non è solo relativa a questo settore, abbiamo anche segnali dall'altro gestore, quindi vuol dire che la concorrenza in questo caso è una concorrenza a ribasso. Nel concreto noi crediamo di dover assolutamente intervenire, lo abbiamo già fatto, sia rivolgendoci all'autorità dei trasporti che all'autorità di governo, al ministro Delrio, perché la questione degli abbonati sull'alta velocità è una questione molto sensibile. Ecco, ormai decine, centinaia, migliaia di utenti del trasporto ferroviario si sono spostati sull'alta velocità perché nelle linee Torino, Milano, Bologna, Roma, Firenze, Napoli, Caserta è molto funzionale, quindi pagano un po' di più per essere trasportati più velocemente, ma questo pagare un po' di più significa avere diritti esigibili al 100%, certo. Ecco, non con questa stranezza che uno prenota un treno e improvvisamente scopre che non può più farlo. Non può più farlo perché appunto il sito per le prenotazioni non dà l'opportunità di fermare il proprio posto. Allora uno potrebbe dire magari perché su quella tratta in quel momento i posti sono tutti preoccupati, per cui l'abbonato che sceglie di bloccarlo all'ultimo minuto non lo trova. In realtà la persona che ci ha segnalato la vicenda, che cosa ha fatto? Ha scoperto che non solo quel treno c'era regolarmente, ma è salito lo stesso per fare una verifica, ha litigato anche con il controllore per l'appunto che voleva farlo scendere e lo ha fatto scendere a Reggio Emilia. Dai. Perché gli ha detto non avevi diritto a questo viaggio, ti va anche bene. Pensa con l'adrenalina. Esatto, ti va anche bene che io non te l'ho fatto pagare, per cui da qui scendi. Il tema era che quel viaggio era mezzo vuoto, per cui la società lo teneva praticamente teoricamente disponibile per i biglietti pagati per intero e non dava la possibilità agli abbonati appunto di formare il viaggio. Questo era per completare anche a beneficio dei nostri ascoltatori tutta la vicenda. Allora, la risposta di NTV, e cioè della società che gestisce l'alta velocità e quindi Italotreno: nel caso in cui ci sia disponibilità di posti su un treno, questi sono assegnati nello stesso identico modo ad abbonati e non. In questo caso invece non è accaduto, mi spiace smentire la società. Può accadere che risultino disponibili all'acquisto dei posti che in realtà non lo sono, è un posto che stanno provando ad acquistare in più passeggeri e nel momento in cui si tenta di finalizzare l'acquisto questo viene impedito. Sul tema dei posti vuoti al momento del viaggio dobbiamo specificare che noi non abbiamo la verifica del check-in e quindi ci possono essere viaggiatori che acquistano il biglietto e poi decidono di non partire o partire prima o dopo. Sì, può anche capitare, ma tutti, due, dai. Non 30 e mezzo treno vuoto. E quindi noi, dice, siamo tenuti a mantenere il posto libero. Sul tema in generale, e su questo la voglio sentire Truzzi, dei pendolari, va detto che noi abbiamo sicuramente una capacità ridotta rispetto al competitor e questo limita commercialmente la possibilità di emettere abbonamenti e infatti stanno progressivamente decidendo di non emetterne più. Questo è accaduto per esempio su delle tratte importanti tipo Milano-Torino, se non mi sbaglio, no? Truzzi? Assolutamente non ne fanno sì, più. Ecco, ma francamente anche questo sarà oggetto di questa segnalazione, di questo esposto che stiamo preparando nei confronti dell'autorità dei trasporti, perché ahimè purtroppo questo caso, che non è il singolo, è il segnale evidente che c'è qualcosa che non va nell'alta velocità per quanto attiene il riconoscimento dei passeggeri di avere diritto a degli abbonamenti, perché poi francamente le capacità ridotte, tutto quello che vogliamo, ma siamo in tratte ad alta densità di pendolarismo e quindi dal momento in cui fanno quelle fermate devono aprirsi in questa direzione. Noi abbiamo chiesto e preteso che ci sia l'obbligo della prenotazione anche per l'abbonato, ma una volta che l'abbonato ha compiuto questo diritto è tanto quanto un altro passeggero. Se mi, ma infatti, a me sembra anche assurdo che ci dobbiamo porre il problema stamattina, Truzzi. Cioè, sì, ce lo dobbiamo porre, nel senso che al di là di fargli dare una tirata d'orecchi, non solo, perché non c'è solo il problema della tirata di orecchi, per noi è una pratica commerciale scorretta che va sanzionata anche in accordo con l'antitrust e quindi multata. Ma detto ciò, a noi interessa anche far riavere tutto il risarcimento, l'indennizzo possibile a questo abbonato e agli altri che si stanno rivolgendo a noi, perché riteniamo che i discorsi sono simpatici e carini, ma sono poi fatti quelli che contano. Esatto. Siamo disponibili a trattare, per la carità, con NTV, sentire le loro ragioni, ma soprattutto chiedere un ristoro a queste persone che hanno subito un danno evidente. Ma soprattutto anche un cambiamento dei contratti, perché allora io faccio l'abbonamento, a parte magari riduci anche il costo, perché qua si tratta dalle 300 alle 400 euro al mese per servizio di cui non si può fruire, quindi questo non si capisce. Puoi mettere anche per iscritto nel contratto che con questo abbonamento tu puoi scegliere di optare solo per due viaggi al giorno, punto, un consumatore lo sa. Quindi voglio dire, anche adottare un po' la strategia della trasparenza potrebbe già essere una cosa. Quindi le chiedo, prima di andare in conclusione, Truzzi, un commento su questo. Secondo, lei ha citato come autorità di riferimento per denunciare quanto accaduto l'antitrust, l'autorità garante del mercato. Ma l'autorità dei trasporti dov'è? E questa è una bella domanda, nel senso che francamente vive ancora a singhiozzo questa autorità. Ecco, quindi vorremmo che scendesse in campo maggiormente e dimostrasse una plastica esistenza a tutela dei passeggeri, non solo nelle forme teoriche del recepimento delle direttive europee, ma in quelle pratiche di confronto con chi poi il trasporto lo gestisce. Ecco, quindi per noi questo è un argomento caldo sul quale ci siamo assolutamente. Per il resto è ovvio che con i gestori, siano questi Italo piuttosto che Trenitalia, abbiamo assolutamente interesse a personalizzare i titoli di viaggio e quindi anche abbonamenti che corrispondano a determinati criteri, magari anche a vantaggio dell'utente, perché è chiaro che se mi si riduce la scelta a pochi viaggi nella giornata, vorrei anche che mi si riducesse un pochettino il costo. Esatto, infatti. Allora, comunque, insomma, l'importante è saperlo. Detto questo, monitoreremo un po' come vanno a finire queste vicende. Grazie a Furio Truzzi per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro ad Assutenti. Grazie. Mi raccomando, ci aggiorni sulle novità. Nicoletta, noi che si fa? Noi andiamo a sentire il nostro GR e torniamo subito dopo insieme tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. State ascoltando un programma offerto da Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. Cuore e denari. Vabbè, ogni giorno se ne scopre una nuova, ma insomma, saluto all'architetto e poi magari commentiamo in un altro momento quello che stavamo dicendo adesso a microfoni spenti con il Carmelo Lauricella, che si è messo l'olio di argan sulla barba. Guarda, dovrebbe farlo, guarda, adesso ci sta pensando, chissà se lui... che cosa ha fatto ieri? Ma no, io so che abbiamo un grande sportivo tra di noi, sì, che è Silvio Lorenzi. Nostro Silvio, l'area tecnica. Che come Giovanni e Franz ha corso la Win for Life World Run, la corsa che, lo ricordiamo, è stata fatta simultaneamente in 33 città del mondo. Allora, noi oggi vogliamo occuparci degli sportivi della domenica. Dopo una domenica da leoni, il lunedì a volte presenta il conto. Se anche voi avete passato una domenica sportiva e state passando un lunedì nero per i dolori che non vi lasciano in pace, siamo qui per voi. 800 24 00 24, un numero verde per i vostri lamenti, e in linea con noi è tornato a trovarci il dottor Franco Confalonieri, un medico di cui non ci si può lamentare mai. Buongiorno dottor Confalonieri, bentornato. Buongiorno, ben ritrovate tutte. Buongiorno, allora, a tutti. Iniziamo da chi si sente tutto rotto, al punto anche da non essere in grado di capire cosa esattamente gli fa male. L'impressione è quella di essere passati sotto un rullo. Il desiderio naturalmente di spegnere il dolore. Se vi riconoscete, restate. Dottor Confalonieri, qui comunque c'è da lavorare. Consigli pratici ed efficaci per ritornare in gamba, in sella, in piedi, che dir si voglia. Intanto siamo a pezzi, ma la prima mossa per spegnere il dolore è capire che cosa ci fa male, no? Perché esatto, se sono i muscoli, se sono le articolazioni, i tendini, i legamenti, insomma, lì, da qualche cosa si deve partire, ci deve aiutare lei. Quindi la prima domanda è: come faccio a capire che cosa mi fa male quando mi sembra che tutto mi faccia male? E cerchiamo di essere subito molto pratici anche. E quindi distinguiamo innanzitutto il dolore muscolare dal dolore articolare, perché sono le due grandi categorie. Muscolo, cioè ci fanno male i muscoli, e qui possiamo distinguere due tipi di dolore. Ci fanno male tutti i muscoli che hanno fatto per esempio la corsa il giorno prima in modo generalizzato, quindi un dolore diffuso, oppure un dolore localizzato, perché qui le cause sono assolutamente diverse. Quindi questa è la prima valutazione che dobbiamo fare. Poi, se invece il dolore è articolare, per esempio a livello del ginocchio o della caviglia o della colonna o delle anche, dobbiamo capire se è un dolore che è insorto un poco alla volta o se è un dolore che è insorto in modo acuto, e soprattutto se è un dolore che migliora con il movimento o che peggiora con il movimento. Queste sono le domande che dobbiamo fare. Le domande base. Esatto. Adesso, dottor Confalonieri, individuato se è muscolare o articolare, quando è insorto e che cosa esattamente mi fa male, il passo successivo è di avere meno male. Tra l'altro, l'ultimo rapporto OSMED, secondo l'ultimo rapporto OSMED, gli italiani consumerebbero sempre più antidolorifici. Allora, prima di arrivare a prendere dei medicinali, dottor Confalonieri, forse si può fare qualcosa? Assolutamente sì. Ghiaccio, riposo, brava, stretching. Brava. Già mi toglie. Le parole di bocca, si vede che mi conosce. Manteniamo però un po' la distinzione che abbiamo fatto prima, così aiutiamo davvero i nostri ascoltatori. È un dolore diffuso, muscolare, generalizzato? Non preoccupiamoci, sono quei famosi microtraumi, microlesioni muscolari. Un po' di riposo attivo, ci muoviamo, la situazione migliora, magari facciamo i famosi bagni caldi con i sali o quant'altro, e comunque stiamo tranquilli, non prendiamo gli antidolorifici, il dolore è destinato a sparire, è fisiologico. Viceversa, è un dolore muscolare localizzato, acuto, anche importante, la prima cosa da fare inizialmente è il ghiaccio, perché il ghiaccio riduce il versamento che si associa alla lesione e quindi riduce di per sé il dolore, è un potentissimo antidolorifico. Naturalmente, se poi il dolore persiste, dovremmo andare a fare una diagnosi, eventualmente come si dice, se il dolore persiste, consultare il medico. Esattamente, però in questo caso è necessario e corretto intervenire con la terapia locale, con il ghiaccio, o eventualmente rivolgersi, se abbiamo un masso fisioterapista di fiducia, per un massaggio defaticante, decontratturante, che potrebbe migliorare la situazione prima di intervenire con i farmaci. E l'artiglio del diavolo, che un suggerimento che è arrivato via WhatsApp da un nostro amico? Cosa mi dice dell'articolo? Io starei attento a gran parte di questi prodotti che possono servire, si pensi anche all'arnica o comunque a questi prodotti che hanno un'azione antidolorifica subito dopo l'insorgenza del dolore, perché comunque questi comportano vasodilatazione, un maggior afflusso di sangue, quindi è vero che nel tempo migliorano la condizione infiammatoria, però inizialmente se c'è una situazione di versamento l'effetto è l'effetto contrario a quello del ghiaccio, quindi proprio come prima scelta direi ghiaccio. Poi se il dolore persiste questo diventa una valida alternativa al farmaco, mi sono spiegato, però deve venire in un secondo momento, ecco. Allora, per evitare di trovarci in panne la prossima volta, perché dalle lezioni si dovrebbe imparare qualcosa. Certo. Ecco. E diciamo che soprattutto la manifestazione di ieri, una bellissima manifestazione, la classica manifestazione che uno anche per un'idea di solidarietà, di condivisione o quant'altro fa non allenato, che è l'errore più grosso che si possa fare. Poi, ripeto, non è un grosso problema, ci teniamo due giorni dolorini, vabbè, però se abbiamo creato un danno a livello articolare, a livello muscolare, la cosa andrebbe evitata. Consigli molto pratici. Innanzitutto il mio vecchio amore, gradualità. Bravissima. Quindi sappiamo che domenica prossima vogliamo andare a fare una corsa, magari due o tre volte, ma anche soltanto 10-12 minuti di corsetta lenta o di corsetta alternato al passo consente al nostro corpo di recuperare la memoria motoria, il ricordo di quel gesto, riabitua i nostri muscoli a quel tipo di utilizzo, riduce enormemente i problemi. Poi un'altra cosa scontata, un minimo di riscaldamento serve comunque, perché sennò poi esce fuori l'agonismo e quindi partiamo e se è una staffetta, se è un gruppo e cerchiamo di stare con gli altri anche se facciamo fatica, se siamo riscaldati le cose vanno meglio. Terzo, che invece è un po' meno scontato, non dimentichiamoci mai il defaticamento. Purtroppo è finita, ci divertiamo, c'è il pasta party, si beve, si sta con gli amici, si ride, si scherza. Se invece riuscissimo a fare un pochettino di allungamento muscolare, un pochettino di cammino lento dopo aver finito la gara, questo riduce normalmente i problemi la prossima per volta. Per quanto tempo? 10 minuti, un quarto d'ora? Sufficienti 9-12 minuti, giusto 9-12. Per dare i numeri precisi, però, intorno ai 10 minuti. Dai. Allora, altro consiglio di Giuseppe. L'ultimo consiglio, se posso, sì. Così ho detto veramente tutto, ho cercato di essere sintetico, magari il problema erano le scarpe sbagliate. Se abbiamo verificato questo problema, la volta dopo ci siamo appassionati alla corsa, andiamo da uno specialista e scegliamo la scarpa più giusta per noi. Non soltanto se ci fanno male i piedi, perché una scarpa sbagliata potrebbe anche aver provocato un dolore al ginocchio piuttosto che alle anche, piuttosto che alla schiena. Allora, Giuseppe ci scrive: per i dolori dopo allenamento consiglio di fare colazione con ananas fresco, mangiando anche il torsolo, e inserire la curcuma nel pasto. Dottor Confalonieri, lei questa non la sapeva? No. Sapevo, ma non posso dirvi tutto quello che so. Vabbè, no, però. Non allora, tense agopuntura, ci scrive allora, un altro ascoltatore. Sì. Cosa ne pensate? Qua bisognerebbe aprire un capitolone, faremo sicuramente una puntata doc. Certo, perché piace molto agli ascoltatori. Dutour. Allora, molto sinteticamente, sia l'ananas che la curcuma, tra i vari effetti benefici che hanno, hanno un effetto antinfiammatorio, quindi riducendo l'infiammazione riducono il dolore. Anche se la curcuma, personalmente, visto che se ne parla, la trovo molto più utile per ridurre l'ansia e questo tipo di situazione che non il dolore. L'ananas va bene. TENS, ok, però siamo già nell'ambito della terapia, come per l'agopuntura. Sicuramente utili, sicuramente importanti, però qui siamo già nell'ambito dell'intervento di uno specialista dopo una diagnosi, ecco. Allora, Cristina ci chiede perché, cara Nicoletta, anzi carissima, non parliamo mai degli osteopati. Ne abbiamo parlato, abbiamo anche avuto, però dice quelli seri, però iscritti all'ordine con un percorso universitario di almeno 5 anni. Ne abbiamo parlato, ma Cristina torneremo e la ringraziamo per il suggerimento a farlo. Magari lo invitiamo anche col dottor Confalonieri, perché si può creare un'alleanza tra medico sportivo e osteopata, ma ci sono tantissime figure, qua vogliamo ricordarle tutte. che si affiancano, a volte anche sostituiscono magari il medico nel trattamento per la prevenzione e anche trattamento di disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico. Ecco, se mi permetto di aggiungere una cosa, io lavoro quotidianamente con gli osteopati, soprattutto in termini preventivi, adesso stiamo parlando di terapia post-corsa, soprattutto in termini preventivi, perché il grande must che hanno gli osteopati è questa capacità di approccio globale alle problematiche della persona, che è quella che manca invece un po' a noi medici tradizionali occidentali, che ci concentriamo sul problema locale. Invece la valutazione va sempre fatta sulla persona nella sua globalità, spesso attraverso questa valutazione si arriva a risolvere anche il problema particolare locale. Quindi sono assolutamente in linea con l'osservazione fatta dalla nostra ascoltatrice e anche sul fatto di rivolgersi a osteopati qualificati, sapendo che poi ci sono scuole di formazione diverse, perché un conto è rivolgersi a un osteopata che ha una formazione nordamericana piuttosto che uno che ha una formazione francese, certo. Quindi anche lì dipende un po' dalle nostre scelte, dalla nostra la nazionalità e quant'altro. No. Esatto. Dottor Confalonieri, noi la ringraziamo per essere stato con noi per questo mini approfondimento, ma molto efficace per i nostri amici sportivi. Naturalmente, se avete delle domande, avete dei dubbi, volete magari, che ne so, scriverci e avere un altro consiglio, potete usare la nostra mail. Intanto voglio darvi un consiglio, perché sai, Deborah, il nostro momento banana, no? Che c'è qua in certo. redazione alle 5, bene. Esatto, sembra sia anche il frutto perfetto per i ciclisti, li abbiamo trascurati, abbiamo parlato più di chi ha fatto la corsa o la maratona, non voglio chiamarli runner perché sennò il nostro amico ci bastona. Bene, sembra che la banana, dottor Confalonieri, sia adatta per i suoi benefici nutrizionali, perché contiene potassio che aiuta a reintegrare i sali, ma soprattutto per la sua forma, che è giusta per stare dentro la tasca posteriore della maglietta mentre si pedala. Naturalmente per mangiarla bisogna fermarsi e tirarla fuori, perché sennò poi tornate di nuovo non da noi. Fermarsi, sono sono caduto riprendendo la banana. Dottor Confalonieri. Sì, tra l'altro ha anche un notevole potere calorico la banana rispetto ad altri frutti, quindi diventa una sorta di pasto sostitutivo. Questo è un altro vantaggio importante. Beh, io ce l'ho per pranzo. Vedi? Oggi. Mangiati una banana. Ottimo. Dottor Confalonieri, se la mangi anche lei. E torni presto a trovarci. Grazie. Adesso vado a prendere l'olio di argan per la mia barba, però perché mi avete assolutamente non ci diventi stimolato. Troppo bello, perché sennò qua tutte queste donne non le teniamo più. Mi ha incuriosito troppo, adesso esco e lo vado a prendere. Bravo. La prima cosa che faccio. Grazie. Arrivederci. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Insomma, non per tutti, per qualcuno il traguardo è ancora lungo, e soprattutto seguite i consigli del dottor Confalonieri, perché se ci arriviamo in salute al momento della pensione ce la godiamo certamente di più. Comunque una bella maratona, mamma mia. Non c'è giorno poi, tra l'altro, in cui possiamo evitare di parlare di questo argomento, perché tra una notizia e un'altra ce ne troviamo una al giorno da dover commentare e approfondire. Allora vediamo un po' che taglio abbiamo scelto per questo lunedì 9 maggio. Vi ricordate, purtroppo se lo ricorderanno in molti, il provvedimento preso dal governo Monti che sospese la rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012-2013. Allora, quel provvedimento, ricordiamocelo, con una sentenza dell'aprile dello scorso anno, la Corte Costituzionale cosa ha fatto? Ha detto che questi soldi invece devono essere riconosciuti e ridati indietro ai pensionati. Il governo cosa ha fatto a sua volta? Manco ti vedo, ha completamente disatteso questa pronuncia. Così, per farla breve, stanno attivandosi sul territorio decine di iniziative promosse o dalle associazioni dei consumatori, comitati spontanei, ma anche studi legali e fiscali per coordinare dei ricorsi individuali e collettivi. E i ricorsi che sarebbero in arrivo sono davvero tanti, un bel gruppo di questi ricorsi si sta incaricando uno studio legale che abbiamo interpellato questa mattina, non tanto per fare pubblicità allo studio legale, ma perché sta strutturando proprio un coordinamento per questi rimborsi molto articolato e preciso. Potete andare a trovare tutte le notizie su rimborsopensioni.it e noi ne parliamo con la responsabile Silvia Malandrin. Buongiorno, che non vuole essere chiamata avvocato, vero? No. Buongiorno a tutti, no? Per correttezza, perché non lo sono, sono solo dottoressa, quindi dottoressa. Per correttezza. Però insomma, nello studio legale che sta gestendo questa operazione ci sono poi dei legali che seguiranno le persone che aderiranno all'iniziativa. Sì. Assolutamente sì, allora la rimborsopensioni.it, che è questo, appunto, questa piattaforma web, questa iniziativa che potete trovare, nasce dalla collaborazione di una società che è Gestione Crediti Pubblici, che da sempre si occupa della gestione dei crediti a favore del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, e lo studio legale Frisani, che è lo studio appunto che seguirà chi decide di darci la fiducia, di ricordare con noi. È un'operazione ovviamente precisiamolo subito dall'inizio, per totale trasparenza nei confronti dei nostri ascoltatori, ovviamente è un'assistenza legale in piena regola che va pagata, però siccome l'obiettivo è raccogliere tante persone che sono rimaste coinvolte in questa vicenda, chiaramente ad ogni persona poi la remunerazione che verrà chiesta è abbastanza contenuta, e se poi l'operazione non dovesse andare a buon fine ci sarà anche la restituzione non totale appunto, però quasi integrale, delle spese che sono state appunto sostenute per attivare il ricorso. Allora, dottoressa Malandrini, ricordiamo chi aveva subito il blocco della rivalutazione delle pensioni per effetto del provvedimento Montifornero? Allora, solo una piccola precisazione ci tengo, proprio per onestà e per correttezza. In realtà il prezzo iniziale è calmierato, no? Proprio perché abbiamo una vasta platea di ricorrenti. Se le cose non dovessero andare, diciamo che nessun corrispettivo sarà dato per il nostro operato, ecco, sarà dovuto dal pensionato per il nostro operato. Dopo facciamo un esempio. Sì, va esattamente. Bene. Mi perdoni, scusi l'interruzione. Allora, chi aveva subito, ricordiamo, il blocco della rivalutazione, quindi di chi vi incaricate in questa fase? Allora, noi ci occupiamo di aiutare a ricorrere tutti quei pensionati che hanno visto leso il proprio diritto, che sono i pensionati che percepivano, quando il blocco della ministra Fornero entrò in vigore, una pensione che era superiore alle 3 volte il trattamento minimo INPS AX, cioè non c'era uno scaglione dove questo blocco si fermava, potevano essere le 3 volte, le 4 volte, le 6 volte, e per chi non se la passava male anche le 15, per dire, no? Nel senso, per farvi capire, non c'era un tetto massimo oltre il quale non si subiva questo blocco, era la partenza, che era le 3 volte il trattamento minimo INPS, quindi stiamo parlando all'incirca delle 1500 euro lorde, per capirsi. Allora, quindi abbiamo ribadito un po' a chi toccò questo provvedimento. Naturalmente non tutti stettero, dottoressa Malandrina, a guardare, e in realtà ci fu un ricorso appunto alla Corte Costituzionale, che in una pronuncia di un anno fa, che cosa ha detto? Allora, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il blocco della perequazione che fu fatto dal governo Monti con il ministro Fornero, e quindi ha sentenziato appunto che chi e i pensionati interessati da questo blocco dovevano ottenere indietro tutti gli arretrati, i soldi che ancora loro in forza di questo blocco non avevano ottenuto. Allora, il punto è che il governo ha disatteso questa pronuncia. Che effetto ha una pronuncia della Corte Costituzionale? Sarebbe dovuta avvenire in automatico? Le sentenze si applicano, no? Si rispettano, così si dice, e soprattutto le sentenze della Corte Costituzionale hanno valenza erga omnes, quindi la Corte Costituzionale lo scorso maggio si è pronunciata appunto su provvedimento, perché è arrivato a sentenziare, perché alcuni non sono stati a guardare, come giustamente ha detto lei, e però doveva riguardare l'intera platea dei pensionati che avevano subito il blocco. Così non è stato, sentivo nella parte introduttiva, lei ha detto giustamente, il governo nemmeno si vede, no? Nel senso, no, ma non solo, ha anche chiesto all'INPS di fare questa cosa, di inviare un messaggio nel giugno dell'anno scorso a tutti i patronati e i centri di assistenza fiscale, con l'ordine di respingere tutte le domande di ricostituzione di questi trattamenti, che è effettivamente un'iniziativa forte. Questo messaggio è una cosa, diciamo, abbastanza pesante. Questo messaggio sul sito, per chi fosse interessato, lo può tranquillamente trovare a disposizione, perché diciamo che è un messaggio interno che è circolato per un periodo e poi è stato anche rimosso. Noi siamo riusciti comunque ad averlo e quindi lo abbiamo messo sul sito, e si legge chiaramente che l'INPS appunto dice ai patronati, che sono un'estensione appunto dell'INPS, guarda, non accettare questo tipo di domande, questo tipo di pratiche, perché altrimenti non ti pago il gettone, perché il patronato vive in funzione delle pratiche che svolge. A sentirla raccontare uno non ci crede. Esatto. È una disinformazione sistematica. Pazzesco. Che è andata. Che vergogna. è andata progressivamente prendendo campo. Noi nasciamo inizialmente anche per questo, cioè questo sito rimborso pensioni che abbiamo appunto reso fruibile a tutti, sicuramente voi so che avete avuto modo di guardarlo, sì. Ed è, correggetemi se così non vi sembra, ma è proprio una piattaforma all'inizio che dà informazione molto chiara, cioè sì. spiega lo stato dei fatti, perché a noi quello interessa, portare alla reale conoscenza, esatto, perché attraverso lo stato dei fatti appunto poi potete, come dire, costituire il presupposto giuridico per questi ricorsi. Allora, dottoressa Malandrin, devo un attimo chiederle di avere pazienza perché devo raccontare la giornata di borsa. A questo punto, ricostruita tutta la vicenda, dobbiamo chiarire ai nostri ascoltatori come intendete portare avanti questo ricorso, come ci si iscrive, quanto costa a chi vorrà sostenere appunto questa battaglia per chi è direttamente interessato e in che tempi pensate anche di ottenere poi una risposta dalle istituzioni, quale sarà anche la procedura proprio legale e formale che dovrà essere seguita. Ci fermiamo, borsa tra poco. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky canale 118. Cuore e denari. Passano gli anni ad aspettare di pigliare la pensione, non dover più lavorare. Allora, gli ultimi 5 minuti di tempo con Silvia Malandrin, coordinatrice responsabile del progetto del sito rimborsopensioni.it, che ha dietro uno studio legale, lo abbiamo già spiegato prima, che si sta incaricando in questo periodo di una battaglia di molti pensionati, quelli che si sono visti bloccate le rivalutazioni delle proprie pensioni per effetto della riforma Monti-Fornero per gli anni 2012-2013. Allora, non una battaglia di retroguardia, ma c'è una sentenza della Corte Costituzionale che un anno fa ha stabilito che questi soldi devono essere riconosciuti ai pensionati. Il governo disattende, ha chiesto anche all'INPS di inviare un messaggio ai patronati appunto per respingere tutte le domande che eventualmente i pensionati faranno per vedersi ricostituiti questi trattamenti pensionistici. Detto questo, dottoressa Malandrin, allora sì, l'ABC di questo ricorso, intanto avete già avuto qualche adesione, come sta andando? Sta andando bene, i pensionati per una volta rispondono in modo, diciamo, di massa, perché spesse volte sono un po' frazionato come mondo. Solamente noi siamo partiti con, diciamo, il lato operativo lo scorso mese di agosto, appena il decreto legge fu convertito in legge, e abbiamo ad oggi circa 7.000 adesioni. Noi lavoriamo su tutta Italia. Su tutta Italia, diciamo. Qual era il vostro obiettivo iniziale? Qual era il vostro obiettivo iniziale per portare avanti tutta l'operazione? C'era una soglia minima che volevate che si raggiungesse? No, noi siamo partiti col discorso dell'informazione, proprio perché giustamente, avendo la corretta informazione, dopo viene da sé, nel senso, uno dovrebbe abbastanza indignarsi, no? Perché è una situazione che va a toccare le tasche dei pensionati. Noi pensiamo all'importanza proprio della pensione oggigiorno, non tanto per la pensione in sé, ma per tutto, certo, quello che gira nel sistema familiare intorno ormai al mondo dei pensionati. Andiamo all'ABC del ricorso, dottoressa Malandrin. Allora, sì, già 7.000 sì, adesioni, cosa state facendo in questo momento dunque? Come intendete portarlo formalmente avanti? Allora, noi apriamo e chiudiamo, sono dei ricorsi collettivi, quindi abbiamo dei gruppi di ricorsi da 50 aderenti minimo o 150 massimo. Noi apriamo e chiudiamo delle liste di adesione, la prima si è chiusa lo scorso novembre, sì, perché proprio per raccogliamo tutte le adesioni e poi le suddividiamo per un principio, insomma, una macro divisione si fonda sul fatto che il pensionato fosse un lavoratore pubblico all'epoca quando lavorava, oppure un dipendente privato, sì, perché poi la competenza per lo studio Fresani che depositerà il ricorso sarà differente, nel senso che quello che era un lavoratore pubblico verrà presentato con altri come lui davanti alla Corte dei Conti della regione di residenza, mentre il lavoratore privato, l'ex lavoratore privato, verrà depositato presso il tribunale, quindi il giudice del lavoro della provincia di residenza. Quindi c'è anche, come dire, esatto, vengono resi omogenei questi gruppi anche oltre diciamo dall'origine del lavoro, anche sulla base territoriale, immagino, no? Sulla base territoriale, sì, la residenza in questo caso fa da spartiacque e l'origine, quindi essere stati dipendenti pubblici o essere stati dipendenti privati quando si lavorava, appunto. E sono già stati, quindi, per esempio, già per il primo gruppo presentato a novembre, in che tempi, immaginiamo di avere? Cominciano in settimana le prime udienze, lo studio avrà da discutere proprio le prime udienze e poi quello che a cui lo studio Frisani mira è trovare un giudice che rimetta la questione in Corte Costituzionale in modo che questa dichiari l'illegittimità del famoso bonus Poletti, quindi del decreto legge, esattamente come lo ha fatto per la Fornero, per il ministro Fornero, quindi per il blocco delle pensioni del ministro Fornero, perché rimangono gli stessi vizi. Allora, dottoressa Malandrini, io devo salutarla, spero di aver detto tutto quello che era necessario far sapere ai nostri ascoltatori. Invito di nuovo tutti i diretti interessati, ma anche chi volesse documentarsi sulla questione, di andare a vedere su rimborsopensioni.it. Ci sono anche con grande chiarezza tutti i costi che devono essere sostenuti dalle persone che aderiscono a queste vostre iniziative. Non appena avrà la prima notizia di accoglimento di questo ricorso o rigetto, una qualunque notizia, dottoressa Malandrini ce lo faccia sapere, che vedremo se darvi ulteriormente spazio, perché a questo punto è una battaglia che anche a noi interessa capire come va a finire. Amica Nicoletta, grazie. Perfetto, grazie mille. Buon lavoro e buona giornata. Grazie, naturalmente. Arrivederci. Adesso Deborah, tu leggimi l'oroscopo, perché novità. Qua so che è tempo. Novità all'orizzonte, ma ci sono anche novità nel nostro cielo. Allora, vuoi che ti dica il mio segno zodiacale è col mio ascendente? Mio. Bellissimo. Siamo le migliori. Infatti. Gemelli con ascendente? Io allora, guarda, qui c'è una bella battaglia, perché il mio orario di nascita è molto, devo, sono stata molto mattiniere, mamma, sono tra il Toro e i Gemelli, ma io mi sento più Toro. Here comes the sun, I say, it's all right. Non di astrologia, ma di astronomia. Vi parliamo in questa ultima parte di Cuore Denari, perché manca poco, davvero poco, all'evento astronomico dell'anno, il transito di Mercurio davanti al Sole. Il fenomeno inizierà alle ore 13:12. Deborah, per concludersi al tramonto, quindi ci siamo. Ma che cosa succederà nello specifico? Insomma, che cosa capiterà lo chiediamo al nostro ospite Luca Buzzi, che è ricercatore dell'Osservatorio Astronomico Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, ci aiuta a osservare, a capire che cosa succederà. Tra l'altro non ci aiuta il tempo, perché a Milano, ma in tutto il nord, abbiamo visto con Laura Vanossi un po' le previsioni. Sì, insomma. E poi ci dà dentro per almeno altri 2-3 giorni. Comunque, Luca, possiamo... E purtroppo sì, anche qui a Varese pioggia battente e di conseguenza il fenomeno non sarà osservabile, perché purtroppo è un fenomeno, come tutti quelli astronomici, che ha bisogno del bel tempo. Ecco, però l'Italia è lunga, per fortuna. Assolutamente, infatti al centro-sud, da Roma in giù, sono sicuramente più fortunati. E che cosa vedranno e come potranno vederlo? Intanto ce lo racconteranno, magari mandandoci un'email. Sì, allora, il fenomeno diciamo subito che è abbastanza raro, perché i transiti dei pianeti davanti al Sole, quindi sono possibili solo Mercurio e Venere, sono molto rari. Mercurio 13-14 volte ogni secolo e Venere invece solo 2 volte ogni secolo. Perché è una signora. Si fa attendere di più sicuramente. E, per osservarlo purtroppo non bastano i classici occhialini, occhio nudo, piuttosto che i classici vetrini da saldatore. È un qualcosa di molto piccolo. Il dischetto di Mercurio è solo 1/150 del diametro del Sole, quindi a occhio nudo non si vede nulla. Bisogna avere un binocolo o un piccolo telescopio, naturalmente appositamente filtrato, per poterlo osservare. E come avete detto voi, inizierà verso l'1:12 circa, per poi terminare verso le 8:40, quando proprio il Sole tramonta, è l'orario di tramonto del Sole. E che cosa vedremo esattamente? Quindi questo piccolo cerchietto? Ecco, è un piccolo cerchietto nero che transita davanti al Sole. E all'epoca, diciamo che verso il 700, questi eventi erano molto importanti, perché erano gli unici eventi che servivano per determinare distanze, soprattutto le distanze Terra-Sole, che oggi sono molto conosciute, ma all'epoca non lo erano. Quindi diciamo che a livello scientifico non ha una valenza così importante come per il 700-800, però conserva sicuramente intatto tutto il suo fascino, dovuto sicuramente anche alla rarità del fenomeno. Il prossimo evento uguale, quindi un altro transito, ce l'avremo nel novembre 2019, quindi fra 3 anni e mezzo, naturalmente meteo permettendo. E noi prenotiamo già Luca Buzzi, perché vogliamo, ci sarà ancora con noi, chissà se ci saremo. Volentieri. Allora grazie, e quindi ci prepariamo. Da Roma in giù, seguendo le indicazioni di Luca Buzzi, ricercatore dell'Osservatorio Astronomico Campo dei Fiori di Varese, raccontatecelo voi che potete vederlo. Intanto, Deborah, per guardare, per chi vuole osservare questo evento astronomico così importante, però bisogna sapersi attrezzare. Allora, tra poco, subito dopo le informazioni sul traffico, abbiamo invitato una nostra amica oculista, la dottoressa Elisabetta Miserocchi del San Raffaele, che ci racconterà perché è importante proteggere comunque sempre la vista, e parleremo anche di quelle strane cose che ci passano, che transitano davanti ai nostri occhi. Mosche, vermicelli, macchioline, ma non solo, anche lacrime, occhi appannati. Ci raccontiamo tutto tra poco, dopo le informazioni sul traffico. 800 24 00 24, il nostro numero verde, sempre a vostra disposizione. Cuore e denari. Poi ho visto gli occhi tuoi. Siamo tornati insieme, ultima parte della nostra trasmissione, nell'attesa di riuscire ad osservare Mercurio che transita davanti al Sole. Parliamo della salute e del benessere dei nostri occhi. In linea con noi una grande esperta, la dottoressa Elisabetta Miserocchi del San Raffaele, oculista presso il servizio Uveite Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta. Allora, non potremo vederla noi che abitiamo al nord, ma da Roma in giù ci racconteranno questo fenomeno astronomico così raro. Ma nel frattempo mi tolga una curiosità: ci può spiegare come mai una luce così lontana e quindi apparentemente innocua può danneggiare la vista, e quindi in tutte le occasioni in cui avvengono questi eventi astronomici la raccomandazione non solo degli oculisti ma degli addetti ai lavori è di proteggersi adeguatamente per evitare poi di avere dei danni molto importanti alla vista, dottoressa? Sì, beh, bisogna proteggere i nostri occhi dalla luce solare sicuramente, perché comunque i raggi del sole possono avere un effetto tossico su alcune strutture dell'occhio, in particolare quelle più esterne come la cornea, la congiuntiva, e quindi è importante sempre mettere delle adeguate protezioni, quindi degli adeguati occhiali appositi perché filtrino i raggi ultravioletti. E soprattutto è importante proteggere i nostri occhi dalla luce solare, perché al di là degli effetti immediati che possono dare i raggi solari, ci sono anche degli effetti nel lungo termine, cioè l'occhio, se viene esposto per lungo tempo ai raggi solari, può avere un invecchiamento precoce, in particolare nel cristallino, quindi si può avere la cataratta, oppure si possono avere anche segni di invecchiamento nelle strutture più posteriori dell'occhio come la retina, quindi un invecchiamento anche della retina dovuto ai raggi solari. Un invecchiamento più precoce, infatti casi di l'età in cui ormai si presenta la cataratta sta sensibilmente diminuendo. Prima si pensava, no, era un problema delle persone anziane, adesso anche persone abbastanza apparentemente giovani possono avere e confrontarsi con questo, come possiamo definirlo, dottoressa, un appannamento del cristallino? Sì, un appannamento del cristallino, che quindi fa vedere offuscato, fa vedere opaco, fa vedere male i colori. Soprattutto questi sono i sintomi classici di un paziente che ha la cataratta. Può capitare anche intorno ai 50 anni, dottoressa Miserocchi, quindi il bisogno magari di avere più luce per leggere potrebbero essere segnali che il nostro cristallino sta un po' invecchiando? Sì, tranquillamente, perché non è che sono solo anche i raggi solari, ma ad incrementare il rischio di cataratta sono anche la luce blu che viene emessa da apparecchi come i tablet, gli smartphone, che quindi possono avere un effetto anche sul cristallino. Vedi, invecchiamento da smartphone, dove andremo a finire? Dottoressa, allora, Mercurio transiterà davanti al Sole. A proposito di transiti, ci sono cose che transitano davanti ai nostri occhi, abbiamo affrontato questo tema tante volte, ma suscita sempre molta curiosità nei nostri ascoltatori, e quindi vogliamo chiederle come interpretare, che cosa fare quando davanti ai nostri occhi sembrano, no, comparire quei vermicelli, quelle moschine, quelle macchiette che passano e poi ritornano. Dottoressa, sono dei corpi, sembrano corpi, sì, estranei. Sono i classici corpi mobili vitreali che di per sé possono non essere niente di patologico, però sono legati a una alterata composizione del vitro, che è la gelatina che sta all'interno dell'occhio, e può capitare in tutte le fasce d'età di avere dei corpi mobili che si vedono soprattutto quando si guarda una superficie bianca, oppure quando si guarda, si legge un libro, si guarda lo schermo del computer. Sono però da ritenersi come un campanello d'allarme se si associano in particolare a lampi di luce, perché in quel caso possono essere il primo sintomo di una patologia della retina, come un distacco di retina, un distacco di vitro, e quindi è meglio sempre che il paziente, quando avverte questi sintomi, si faccia visitare con un'adeguata dilatazione del fondo oculare. Quindi mosche sì, vermicelli, macchioline, lampi no. Questo è il messaggio. No, lampi andate dall'oculista, è sempre un brutto segno. Allora, abbiamo Francesco da Bari. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi. Buongiorno. Quindi lei potrà vedere Mercurio. Tempo permettendo. Annaggia, questo Mercurio è arrivato nel momento sbagliato. Vedi, bisogna scegliere il momento giusto. Questi non ci sono più i pianeti di una volta. Francesco, eccoci a lei. E volevo fare una domanda. Io praticamente sono quasi 3 anni che ho un occhio, il destro, che mi lacrima quasi continuamente. Ho fatto diverse visite oculistiche. E non ha trovato ragione. Grazie. Il canale lacrimale è libero. Ho provato anche qualche collirio antistaminico, ma le ho provate di tutte, ma l'occhio di Francesco piange. Io ringrazio Francesco per questa domanda, dottoressa, che ci dà lo spunto per parlare non solamente delle macchioline, ma anche dei disturbi che per Francesco durano da tempo, ma soprattutto si verificano in molte persone proprio in questo momento, quando le giornate diventano più luminose, le giornate di ore si allungano, ecco che i nostri occhi in qualche modo fanno un pochino più fatica, e allora lacrimano entrambe o solo uno nel caso di Francesco, quindi ci segnalano un po' la loro difficoltà ad adattarsi alla luce e quindi ci invitano a proteggerli. Ma dottoressa, per chi si trova a gestire un disturbo molto simile a quello descritto da Francesco, quali sono le indicazioni importanti? Occhi che lacrimano, attenzione a, dottoressa? Allora, occhi che lacrimano, se il signor Francesco ha già fatto la prova dei canalini lacrimali che sono aperti, può essere un segno di, paradossalmente, di occhio secco, perché l'occhio secco è una condizione frequentissima, può presentarsi in modo asimmetrico, cioè avere un occhio più che un altro con la secchezza oculare, e la lacrimazione riflessa è un segno che l'occhio ha una mancata lacrimazione o una lacrimazione di qualità alterata e quindi risponde lacrimando. Quindi alla base ci possono essere tutti i problemi legati alla secchezza o all'irritazione anche delle palpebre, che spesso si associa a questa lacrimazione esagerata dell'occhio. Dottoressa, un consiglio stagionale. Siamo nel cuore della stagione delle allergie e abbiamo più luce. I nostri occhi quindi stanno attraversando un momento di difficoltà. Come possiamo aiutarli? Può essere utile, ad esempio, l'utilizzo di lacrime artificiali? Lacrime artificiali sì, sempre, perché comunque lubrificano l'occhio e anche in questo periodo di allergia sciacquano via dall'occhio tutti quelli che sono le sostanze allergizzanti come i pollini. Poi sicuramente la terapia con i colliri antistaminici riduce l'allergia, ma anche la protezione con adeguati occhiali o lenti protettivi è importante, perché non solo ci ripara dalla luce, ma ci ripara dall'aria, dal vento e da tutti quegli allergeni e quei pollini che ci sono in questa stagione. Dottoressa, tra poco naturalmente nelle prossime puntate dedicheremo spazio alla scelta dell'occhiale da sole giusto, ma se i miei occhi non hanno alcun fastidio, devo comunque, è consigliabile proteggerli con gli occhiali da sole o si indossano solo in presenza di luce solare molto forte o fastidiosa? Questa è la domanda che arriva da un ascoltatore via WhatsApp e con cui mi piacerebbe concludere questa nostra chiacchierata. No, è sempre meglio proteggerli con gli occhiali da sole, gli occhi, perché al di là dei danni immediati, quindi ci sono anche di quelli di cui abbiamo già parlato a lungo termine, dell'invecchiamento degli occhi, e poi comunque è sempre meglio proteggerli con degli occhiali che siano personalizzati a seconda delle attività che ogni paziente fa. Cioè, se il paziente fa il velista, ha bisogno di magari polarizzate. Pensi che bellezza. Piuttosto che se vai in montagna, di lenti più specifiche per la protezione dei raggi ultravioletti. E per noi che siamo in radio quasi tutto il giorno, prendiamo, quando usciamo, però un bello occhiale in un bello sole. Studio, bello. Molto pieno di luce. Dove inviteremo di nuovo la dottoressa. Grazie per essere grazie. Stati con noi. Grazie Nicoletta, arrivederci. Buona giornata. Allora, tu parti, io vai parto. In avanscoperta, poi io ti raggiungo. Ci sentiamo nei prossimi giorni da Cibus Parma. Parleremo di tante cose legate all'alimentazione, soldi e salute. Naturalmente non mancheranno gli spazi adeguati. A domani. A domani.